Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis, benvenuti a Smart City 2013, iniziato da poco, anno dell'aria. Chissà cosa ne pensano gli abitanti di Pechino che da alcune settimane non vedono il sole perché l'aria è ottenebrata, si dice così, Margherita Fronte? Ottenebrata. Ottenebrata, da un incredibile livello di inquinamento atmosferico, addirittura sembra che sia così denso lo smog da aver attutito il chiasso infernale che c'è in quella città e che conosce chiunque ci sia passato. Anche per pochi giorni come il sottoscritto. È uscito un libro quest'anno, 2013, Anno dell'Aria, si intitola Aria da morire. Una delle autrici naturalmente la giornalista Margherita Fronte, che abbiamo appena salutato. Pier Mannuccio Mannucci invece, attuale direttore scientifico del Policlinico, è l'altro autore. Un libro che cerca di fare il punto sull'inquinamento atmosferico. Allora Margherita, voi cercate di spiegare un po' tutto l'insieme di cause con cause che possono produrre alti livelli di inquinamento atmosferico. Quali sono gli inquinanti e da dove provengono? Allora, se possiamo partire dal caso della Cina, che è di cronaca in questi giorni, lì l'inquinamento è determinato soprattutto da industrie e dai riscaldamenti, tant'è che per la prima volta la Cina, il governo cinese ha ammesso il problema e ha posto delle limitazioni, in particolare sugli impianti industriali. E da noi la situazione è diversa, perché da noi in particolare in pianura padana ci sono dei livelli di inquinamento molto elevati, anche se ovviamente non si raggiungono questi picchi, e da noi il problema è dovuto soprattutto al traffico. C'è un po' un mito da sfatare secondo cui l'inquinamento in città è determinato soprattutto dai riscaldamenti. Beh, questo non è vero, perché i principali emettitori, in particolare di polveri sottili, di ossidi di azoto, che sono inquinanti primari, sono le automobili. Sono le automobili, mentre per esempio sono in India l'utilizzo di carbone e di biomassa per cuocere, per riscaldarsi, crea una fumera, come diceva mia nonna. Sì, assolutamente. In India ci sono molte regioni del mondo dove si usano questi sistemi di riscaldamento un po' arcaici, appunto le biomasse. C'è l'India, c'è la Mongolia, Ulaanbaatar è una delle città più inquinate del mondo. Ci sono alcune regioni dell'Africa anche che hanno questo problema. Ecco, tra l'altro Ulaanbaatar condivide un dettaglio, diciamo, non da poco con Milano. Esatto, Ulaanbaatar è una delle città più inquinate del pianeta, perché unisce a questo problema del riscaldamento effettuato con le biomasse una situazione meteoclimatica che è assolutamente simile a quella della pianura padana, e cioè sopra Ulaanbaatar, soprattutto in inverno, si forma una cappa di inversione termica. Questo vuol dire che c'è una massa di aria calda che schiaccia al suolo gli inquinanti, e in assenza di vento, esattamente come avviene nella pianura padana, gli inquinanti ristagnano per molti giorni. E si concentrano sempre di più. Ecco, fra i vari inquinanti che abbiamo nominato, gli ossidi di azoto, per esempio, sono dovuti alle alte temperature di combustione all'interno di certi motori, particolato si produce soprattutto nei diesel, ce ne sono vari altri. Ma qual è il killer più pericoloso di tutti? Ma da poco, da qualche anno, è balzato all'attenzione dei ricercatori, dei medici, il black carbon, che è un tipo di polvere molto molto fine, emesso soprattutto dai motori diesel, ed è un inquinante che è ritenuto responsabile della grande maggioranza degli effetti sulla salute di tutte le polveri sottili. Quindi è una piccola frazione delle polveri sottili che però è di gran lunga più pericolosa rispetto alle altre. Quella frazione, le cui dimensioni sono sotto i 2,5 micron, quindi un quarto di quel famoso PM10 al quale siamo abituati a fare riferimento di solito. Il black carbon è ancora più piccolo, è 0,1 micron, veramente molto molto piccolo. PM2,5 comprende ancora una serie di inquinanti, fra cui appunto il black carbon, che è ancora più fine, è quasi carbonio elementale con qualche particella attaccata in più, insomma, non si sa bene cosa, spesso di un po' di tutto è quello che fa male. Ecco, i rimedi, adesso ce ne sono tantissime di cose che si possono fare. Se uno pensa ai riscaldamenti, pompe di calore elettriche naturalmente riducono il problema perché non bruciano combustibile. simili, però abbiamo detto che il grande problema è il traffico e una delle soluzioni che sembra la più ovvia è chiudere, diciamo, i centri delle città al traffico, però spesso si sente dire ma no, non è vero, non serve a niente. Voi avete fatto una serie di analisi su questo. Sì, sì, questo qui è sicuramente un punto cruciale, perché quando si dice che queste misure non funzionano è perché sostanzialmente viene misurato l'inquinante sbagliato, cioè si misura la concentrazione di PM10, quindi il particolato un po' più grosso, e si vede che in effetti quando si chiude al traffico una zona il PM10 sostanzialmente non cala. Però cosa succede? In realtà il PM10 è emesso sì dal traffico ma anche da altre sorgenti e soprattutto è un inquinante che viaggia. Molto mobile, molto viene mobile, portato esatto. In giro dal vento. Quello che invece accade è che il black carbon invece cala molto quando si riduce il traffico. Il black carbon è un inquinante di prossimità proprio del traffico. Si è visto per esempio a Milano, da quando hanno introdotto l'area C, sono state fatte anche delle misure specifiche su questo inquinante e si è visto che effettivamente dove c'è la limitazione del traffico il black carbon è molto diminuito. Questo è importante perché, come dicevamo, il black carbon è responsabile della grande maggioranza degli effetti sulla salute, per cui farlo diminuire è insomma un dato. Quindi va bene la congestion charge, va bene chiudere i centri e limitare il traffico, ma se poi si vogliono poter misurare i risultati non bisogna misurare il PM10, bisogna misurare il PM2,5 e si ha una misura, in particolare il black carbon sì. Che è questo più pericoloso. Ecco, abbiamo toccato questo tema della misura, abbiamo capito che comunque bisogna imparare a misurare un po' meglio questi inquinanti, però spesso si sentono polemiche rispetto al fatto che le centraline non funzionano, i dati sono truccati, sono messe nel posto sbagliato dove magari c'è poco inquinamento. Tu cosa ne pensi oggi? Ma insomma è chiaro che la densità delle centraline sul territorio è importante per avere una misura accurata, però sostanzialmente quelle che abbiamo adesso sono in rete fra di loro e danno una misura secondo me realistica della situazione nel loro complesso, perlomeno diciamo sulla media annuale sono sicuramente attendibili, anche sulle medie giornaliere alla fine insomma. Grazie Margherita Fronte, che però torna domani perché vediamo che cosa succede dentro le case, vero? Ci sentiamo domani allora. Buona serata.